Radio Tube Social Network. Sono le 17:05 minuti, 349-238-6666 il numero per i vostri sms e whatsapp, e poi ci sono i miei social @MartaCagnola su Twitter e su Instagram. Io vi ho detto che avremmo avuto un co-conduttore, ma non d'eccezione, di eccezionalità d'eccezione, per questa seconda ora di Radio Tube. Ma lui ancora si ricorda quando si chiamava Il Sabato del Villaggio e poi Radio Tube. Vabbè, ve lo presento per bene. È il direttore della comunicazione dell'Università Cattolica, ma è anche un giornalista, ma è anche un caro amico di Radio 24. Bentornato a Daniele Bellasio. Ciao Daniele! Marta! Sono Come ti senti? No, vorrei veramente dire questa cosa qua, sono molto molto emozionato, perché io ho passato 7 anni al Sole 24 Ore e questa musichetta di sottofondo, questo lancio che partiva, mi ricorda sicuramente tra i momenti migliori e tra i ricordi che mi portano più malinconia del mio passaggio al Sole 24 Ore, quindi ti ringrazio moltissimo dell'invito, sono molto emozionato e quindi farò molti più errori di quando allora già ne facevo parecchi. Ah, che meraviglia. non ti dico, Roberta sta ridendo, no, dice che non ne facevi, ma non ne facevi. La mia preferita. Sì, ma volevo dire una cosa, sì. L'arredamento è tutto uguale, è rimasto tutto uguale però. Sì, è rimasto tutto uguale e adesso, cioè, quando siamo distantissimi. Sì, perché purtroppo, lo spieghiamo agli ascoltatori, non è ancora possibile trovarsi di persona perché abbiamo ancora tutti i distanziamenti negli studi, abbiamo delle policy giustamente di prevenzione, ma quando si potrà devi tornare in studio a vedere, non è cambiato nulla. L'arredamento è uguale. Sai, le foto, va bene. Anch'io. Okay. Ma ti ho visto di recente ci siamo appena visti in un talk del nostro Open Week. Allora dai, tra poco ti faccio parlare anche del tuo lavoro, perché gli ascoltatori, appunto, io ti ho presentato come responsabile della comunicazione dell'Università Cattolica e qualcuno avrà un po' di curiosità di sapere qualcosa del tuo lavoro, però parliamo un po' dei video della settimana come facevamo un tempo. Certo. Allora io ti faccio vedere, ovviamente, con grande dolore, con grande commozione, ma anche con un bel po' di speranza, questo che è sicuramente uno dei video che in questi giorni, in queste ultime ore, abbiamo visto di più. Ciao, sono qua con Enrico, siamo arrivati a Brolio, ci hanno dato un bellissimo pensiero, il cuore del nostro paese. Guarda che cosa ci hanno fatto, benvenuti a Brolio. Solo in Italia accadono certe cose. Grazie ragazzi, vi voglio bene. Tutta l'Italia si è stretta attorno ad Alex Zanardi. È proprio via che la strada è lunga, ha detto ieri, proprio prima di partire per questa corsa. Sui social veramente una commozione unanime, perché ci sono pochi personaggi come Alex Zanardi, direi anzi che ce n'è solo uno. Non mi viene in mente, ci pensavo guardando le timeline dei vari social in queste ore, dove ci si divide su tutto, dove le polemiche sono sempre su tutto e dove tu sei anche un po' in grado di prevedere dove andranno a seconda del posizionamento politico, culturale, le varie persone. Così io un altro non me lo ricordo, un'altra persona, un altro capace di mettere così tutti d'accordo, ma del resto, lui, cioè voglio dire, un sorriso pazzesco, una storia incredibile, una voglia, una simpatia umana unica, se lo merita il fatto che siamo tutti qui senza distinzione alcuna a tifare per il fatto che anche questa sfida la vinca. Sì, assolutamente. E a me personalmente ha cominciato a suonare il telefono, perché mi arrivavano i messaggi degli amici come se fosse per tutti un amico, una persona di famiglia, quindi questo fa capire proprio il valore di una persona. Invece, ecco, voglio anticipare un argomento che avrei pensato per dopo, perché tu dicevi al di là delle appartenenze politiche, al di là delle... E invece sembra un momento storico in cui, ancora peggio che prima della pandemia, speravamo che questa pandemia potesse cambiare qualcosa, ci dividiamo su tutto, ma in maniera violentissima. Un'altra cosa che è successa questa settimana è questa qua, lui ha parlato a Sky Sport, eccolo. È stato nel fatto di fare una cosa così importante, vedere anche lo sguardo dei calciatori che da casa non si capiva come sarebbe il fatto di un stadio così vuoto, un stadio cioè, senza gente, senza nulla. Poi avendo questo. Allora, Sergio Silvestre, che ha cantato l'inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia, si è impappinato. Allora, questo è quello che lui ha raccontato a Sky Sport. Ma la cosa che a me ha spaventato sono state le reazioni o favorevoli o contrarie, ma in maniera così tranchant, così. Io personalmente avevo, non lo so, ho pensato che fosse stata una scelta sbagliata, perché evidentemente lui era troppo inesperto, la cosa non era stata ben preparata. Poi nel momento in cui tu hai sbagliato l'inno, forse devi capire che è una cosa un po' grave, che può colpire la sensibilità di qualcuno. E invece la cosa era o sei razzista o cioè non si poteva fare un ragionamento così, magari un po' più sfumato, ma non per essere equidistante da due estremi che non mi appartengono minimamente, ma era impossibile fare una riflessione. Io speravo che la pandemia ci avesse aiutato un po', no? La famosa frase, no? Sei migliori. Sì. No, tu mi hai detto per retrasmissione nel solito modo da fuori classe che hai di fare la scaletta, mi hai scritto un'opinione impopolare. Ho un'opinione impopolare. Sì, ho un'opinione impopolare. Mi pare molto saggia. Io devo dire che sono contento che hai avvicinato i due temi, perché Zanardi e l'inno sono di tutti, anche di chi sbaglia. Cioè, voglio dire, anche di chi si emoziona, anche di chi è diverso. Concordo con te. Non si può discutere un argomento di questo tipo tirando in campo i massimi sistemi nel modo però più becero. Cioè, se tiri in campo i massimi sistemi, allora non puoi essere becero. Se sei becero, allora stai scherzando, e va bene, sui social ogni tanto si può anche scherzare, e si può scherzare su un cantante che sbaglia. Non è che voglio criticare questa cosa qui, però francamente sono d'accordo con te che non si può tenere assieme sempre tutto. Ogni tanto bisogna dividere il grano dall'olio. Ok, si è emozionato e ha sbagliato? Boh. Cioè, io poi peraltro che stavo guardando, sì, una pausa di un minuto e una parola, boh, non lo so. Sì, poi posso anche dire che magari però poteva, cioè, allora, adesso qualcuno mi criticherà. In America ci fu una volta, tu lo saprai, ti ricorderai, una stonatura pazzesca, forse addirittura di Mariah Carey, in un inno. Sì. Cioè, boh, non so. Ma non facciamolo più fare st'inno a cappella, perché allora, purtroppo la storia degli inni cantati dagli italiani, cioè, è un'americanata che a noi non ci viene. Non facciamola. Brava. Poi vogliamo farla fare dal ragazzo di origine straniera, che peraltro lui è un amore, perché lui è veramente una persona che neanche vi sto a dire, per dare un segno, ma poi ti si rivolta contro in maniera grottesca, e quindi lasciamole fare agli americani queste cose, va? Sono d'accordo, anche perché l'inno, che era in realtà è molto sentito in Italia, ma nella sua come dire esposizione teatrale all'americana, può essere che in certe circostanze non prenda gli italiani, in altre ovviamente prende tantissimo l'emozione. Per cui sono d'accordo con te, non si può sempre essere schematici. No, infatti è stato tutto, poi quando sto con io non scrivo niente sui social, perché sennò poi Brava. Mi si dice, tu pensi così, pensi cosà. Allora, siccome invece vorrei fare un discorso un po' più complesso, sto zitta, e credo che questa sia un po' purtroppo la sconfitta dei social, non che sia zitta io, che è una conquista per l'umanità, ma in generale che non si possa argomentare. Adesso sai cosa fa? Durante la pausa per la viabilità chiedo a Edoardo Lavezzari cosa pensa. Chiedo cosa ne pensa Edoardo Lavezzari. Traffico. Sì, dai, facciamolo. Lo lanci tu. Ti ricordi come si fa? Vai, Daniele. E ora le informazioni per chi sta viaggiando. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Promo 24. Riprogettare i processi, digitalizzare la supply chain o adottare sistemi di business intelligence prima dell'emergenza sanitaria non sembrava urgente, ma ora è vincolante per il futuro delle aziende. Sorma, gruppo Centropaghe, che da 40 anni informatizza aziende manifatturiere multisettore e internazionali, realizza progetti di innovazione e offre soluzioni custom di MES, logistica di magazzino, Salesforce Automation, fatturazione elettronica, business intelligence e analytics. Il software SI5 ERP di Sorma coniuga funzionalità potenti con la tecnologia e la digitalizzazione. Con la nuova versione web del software SI5 ERP di Sorma, gruppo Centropaghe, i dati sono accessibili da remoto H24. Visita sorma.com, ERP e Digitech per aziende sfidanti. RadioTube Social Network. E siamo ancora insieme con RadioTube Social Network e con il nostro co-conduttore di Super Fanta Mega Extra Eccezione, Daniele Bellasio. Daniele, però hai visto come sono cambiate le tecnologie, che ci si collega da remoto, eh? C'è l'app, c'è l'app, bellissimo. Vedi, un po' di tecnologia l'abbiamo implementata. Personaggi... C'era il grammofono quando c'ero io, no? Sì. <C'era>... Oh, quanti anni sono? Saranno un 3 o 4. Cioè, a che puntata sei? Boh. No, è la 40esima di questa edizione. Se vuoi, ti faccio tutto il conto dopo. Vabbè. È la 40esima di questa edizione. Daniele, okay. Personaggi divisivi. Divisivi, che brutto aggettivo ti ho tirato fuori. Divisivi. Chi avrebbe mai detto che sarebbe diventato divisivo per il suo pubblico? Beppe Sala, il sindaco di Milano, che aveva uno zoccolo duro, certo che parliamo di politica adesso, uno zoccolo duro di fan sui social, e però ieri ha fatto il passo falso e da un momento all'altro è passato nelle file del nemico. Questa cosa, vabbè, mi ha fatto sorridere. Eccolo qua, il clamoroso passo falso. Non ho ricette auree, ovviamente sto cercando di fare il possibile per ridurre la perdita di lavoro che sta avvenendo nella mia città e anzi per creare nuove occasioni di lavoro. Un consiglio me lo sento di dare. Io sono molto contento del fatto che questo lockdown ci abbia insegnato lo smart working e ne ho fatto ampio uso in comune, ma ora è il momento di tornare a lavorare, perché l'effetto grotta per cui siamo a casa, abbiamo lo stipendio e poi ha i suoi pericoli, indubbiamente. Ecco qua, chi di video su Instagram ferisce, di video su Instagram perisce, perché già da un po' di tempo il sindaco Sala era stato un po' criticato per alcune sue scelte online, la foto con le frecce tricolori, per non parlare dell'hashtag Milano non si ferma. Ma viva Dio, dopo questo video si è scatenato l'inferno. Io personalmente non sono poi così contraria a quello che dice Sala, cioè secondo me lui non stava dicendo che chi è in smart working non lavora, peraltro poi vabbè io non dico neanche smart working perché non mi piace, telelavoro non lavora, forse lui pensa, non lo so, io ci ho pensato, da sindaco vorrebbe la città che si ripopola, sembra normale. Sì, diciamo che appunto a Milano scusate, aspetta Daniele, mi sei un attimo cascato, ristaccati e ricollegati, vediamo, facciamo un tentativo. Ho appena detto che avevamo implementato una favolosa tecnologia e adesso la tecnologia mi sta... L'ho fatto apposta, è la vendetta. Pronto? Daniele, adesso ti sento. Ci sono? Ci sei. No, ma non bisogna mai dirle queste cose. Me lo dico a me stessa, della mai dire. Ma certo. Meno male, tanto è caduta mentre stavo parlando in milanese che non lo so usare. Ah, per cui no, stavo non lo sai qualcosa. In milanese perché tu sei più piemontese che milanese. Sono più piemontese. Una roba tipo Felé falso me stesso. Non sgridatemi sui social. No, allora, Beppe Sala fa il sindaco di Milano, è chiaro che vuole che la città riparta nel migliore dei modi e quindi, come dicevi tu, vuole che la gente prenda i mezzi pubblici, vuole che, ovviamente seguendo le regole che ci permettono di garantire la sicurezza sanitaria, per cui ha fatto un invito a ritornare ad attivare i centri di produzione al massimo che si possa fare. Io personalmente penso che l'utilizzo del lavoro, come lo vogliamo definire, flessibile, con gli strumenti digitali, con la capacità del dipendente in qualche modo di auto-organizzarsi tra presenza al lavoro e lavoro da remoto, sia una scoperta positiva di questo periodo. periodo. Certamente non può essere lasciato allo spontaneismo generale, ci vogliono delle regole, delle policy, ci vogliono gli strumenti per farlo e ci vuole la capacità di riprendere sull'effetto, come l'ha definito Caverna o dintorni. Un po' di ragione ce l'ha. Tutti noi abbiamo provato un po' la difficoltà. Io, per esempio, l'ho provata la difficoltà in un primo momento a riuscire. Cioè l'idea di... Ma io tutto sommato resto in casa, insomma è passato del tempo in casa, quindi per cui chiaramente molto legato al suo ruolo. Dopodiché forse, come sempre, se dalle provocazioni facessimo discendere un dibattito saggio sulle nuove regole per lo smart working o come lo vogliamo chiamare, sarebbe più utile che non, come sempre, unire il becero ai massimi sistemi e scagliarsi. Sì, perché ormai è diventato il nemico. No, ma poi è diventato il nemico di quelli che erano i suoi sostenitori nel giro di poche ore. C'è voluto pochissimo, ma povero Sala. Qualcuno scrive al 349-238-6666 al Pirellone. Vabbè, ma non è tanto un problema di Pirellone, perché Pirellone c'è la regione ed è a Palazzo Marino il sindaco. Falliscono tutti i negozi se la gente non torna in ufficio perché non ha detto la verità. No, ma secondo me lui effettivamente in quel frangente stava parlando della rinascita economica della città, quindi non è neanche male dire che bisogna far ripartire le cioè non è un peccato mortale dirlo, secondo me. Poi magari io sono troppo brianzola in questo, penso che sì, sicuramente sono un po' brianzola. Molto brianzola. Senti, ma bisogna c'è ancora il pandino? C'è ancora il pandino? No, non ce l'ho più il pandino. No, non ce l'ho più il pandino. Aveva 10 anni. Aveva 10 anni. C'erano ho cambiato certezze, macchina. Vabbè, ho cambiato macchina da un anno. Sì, il pandino non c'è hai più. Hai contribuito al PIL. D'altronde bisogna fare un pochino girare l'economia. Se no, troppo facile dire che ha ragione Sala e dopo io non la faccio girare l'economia. Daniele, ma tu la fai girare. Dimmi. Sì, mi conosce. Allora, potremmo parlare di politica per ore, perché questa settimana, sì. Guarda, neanche li faccio sentire i video. Salvini che mangia le ciliegie mentre parla Zaia e dopo dice la gente ce l'ha con le ciliegie. Non proprio. Non era proprio. Matteo, no, non era colpa delle ciliegie. De Luca che dice delle cose, secondo me, un filino sopra le righe di Salvini. E che però dopo aver detto che avrebbe usato il lanciafiamme nel momento in cui ci sono i festeggiamenti di Coppa Italia a Napoli, però il lanciafiamme non l'ha tirato fuori. È un periodo un po' così, Daniele, è un periodo un po' strano. Beh sì, abbiamo vissuto una cosa che non pensavamo di vivere e che è stata molto sofferente per tutti, soprattutto per chi ha dovuto lavorare negli ospedali, per chi ha avuto parenti o per chi è stato colpito direttamente da questa pandemia, ma anche per chi semplicemente si è dovuto abituare a un tipo di vita molto diversa. Tutti noi ogni mattina quando usciamo di casa e qualcuno se la dimentica la mascherina o qualcuno è troppo legato addirittura alla mascherina, siamo molto combattuti tra un estremo di voglia di ritorno alla normalità e una saggezza che ormai ci è indotta dal fatto che abbiamo imparato che alcune cose che abbiamo utilizzato hanno funzionato per ridurre il contagio. Non è facilissimo, forse lo riusciremo a raccontare nel migliore dei modi fra qualche mese, ci vorrà del tempo. Poi ci sono zone, un'altra delle cose che facciamo fatica a capire è che ci sono zone del paese in cui questa vicenda è stata accolta in modo molto diverso. Io sono convinto che se noi prendessimo il racconto di chi sta in Val d'Aosta, di chi sta a Milano, di chi sta a Roma, di chi sta in Campania, di chi sta in Sicilia, avremmo racconti molto diversi. Tenere assieme le soluzioni a questo problema con vissuti molto diversi come quelli che ci sono stati non è semplice, non è per nulla semplice, quindi a volte il buon senso, si è tanto elogiato il buon senso degli italiani in questa fase, vediamo, speriamo continui. Allora, 349-238-6666, Daniela, oggi faccio fatica a leggere i messaggi perché abbiamo un'organizzazione diversa, devo mettere e togliere gli occhiali perché non ci vedo da lontano. Mentre stai facendo le solite 15.000 cose che fai mentre conduci. No, sono miope. Daniela scrive, Sala ha parlato di matematica, non sarà che a lei giornalista è stata a suo tempo ostica, a me tantissimo, lo dico sempre, e io la capisco perfettamente. Ci sono tante attività che risentono in modo negativo dello smart working di altri settori, ad esempio bar, ristoranti, che vivono delle consumazioni degli altri, come è accaduto a me, ad esempio i bancari che lavorano a casa. No, ma infatti Daniela, lo abbiamo detto, cioè è normale che un sindaco pensi anche alla ripartenza delle attività economiche della città. Non ci nascondiamo dietro un dito, se tutti lavorano da casa ci sono delle attività che non ripartono, è così. Io ho lavorato in radio metà del tempo e mi sono comprata la metà dei vestiti, che strano, guarda che è proprio veramente è grave questo. Però secondo me di libri e dischi di più. Quello sì, dischi, sì, insomma, sì, musica, sì, dischi, sì. Come sono antico, come sono, ho detto dischi. No, di libri di più, per, di libri di più. Perché sta a cuore a te. Allora, parliamo un po' del tuo lavoro prima della pausa. Tu comunichi l'Università Cattolica. Intanto ti faccio sentire un video di una influencer che si chiama Call Me Didi, un video che ha centinaia di migliaia di visualizzazioni, è stato registrato a gennaio e quindi si sente perché lei era ancora libera. Ti faccio sentire questa influencer, devi prenderla come influencer alla Cattolica, aspetta, senti qua, Call Me Didi. Sono arrivata in Cadorna e ho l'esame in Sant'Agnese, che è qua vicino. Milano è talmente casa mia che non sto realizzando. Sembra di essermi svegliata nella mia vecchia casa, di essere venuta qua e ciao. Sto per entrare, non posso più tirarmi indietro adesso, aiuto. Ho appena salutato una mia amica che lei ha finito l'esame, cioè strala in video. Lei aveva tutta la sessione alla mattina, io inizio alle 2, in realtà è stra presto, cioè non sono neanche le 11. Inizieranno le ore di ansia in cui ripasserò fino al vomito. Raga, scusatemi, io non ci sto credendo, ho chiuso con 28, l'ultimo esame 28. Ragazzi, ho finito, Cattolica, ciao raga. Oh mio Dio raga, adesso dico al bidello che ho finito gli esami. Devo solo avvisarvi che ho finito gli esami della mia vita qua in Cattolica. Sono molto contenta, grazie raga. Questa influencer che ha fatto il video dell'ultimo esame della sua vita, beh, qualcosa ne avevo sentito, sì, carino, sì. Molto carino, molto, molto anche carino. Perché poi Sant'Agnese noi quest'anno compiamo, l'anno prossimo per la verità, 100 anni di università, e Sant'Agnese è l'edificio storico, peraltro tu conosci bene perché Sant'Agnese appunto, è casa mia, perché a Sant'Agnese le lezioni di lingue e di comunicazioni io ci ho passato 4 anni murata dentro Sant'Agnese. Sì. Adesso io ci sono stato l'altro ieri, è tutto molto chiuso, ma a settembre sarà diverso, speriamo. Come avete vissuto questo periodo? Dunque, come abbiamo vissuto? Allora, l'Università Cattolica, diciamo, pone al centro del suo lavoro quotidiano la relazione tra lo studente e il docente. Tra l'altro è la cosa più bella del mio lavoro, io sono lì in mezzo tra chi insegna e chi impara. Ti scambiano mai per un universitario? No, è più facile per signore professore, ma no, per un universitario no, però è molto bello poter imparare da entrambi. Nel mio caso, io occupandomi della parte, essendo diciamo così un tecnico amministrativo in mezzo, ho la possibilità di imparare da entrambi. Vi assicuro che dai ragazzi anche in questa fase abbiamo imparato moltissimo. Io da quando lavoro in Università Cattolica sono diventato un grandissimo ottimista sul futuro di questo paese, perché i ragazzi tra i 20 e i 26-27 anni, quelli che io incontro, sono straordinari, gente che si siede. Dici 26-27 perché ci sono anche le scuole post laurea, non perché sono fuori corso, dai. No, anzi, da noi di solito non sono fuori corso. Quindi è gente che sono ragazzi che si siedono e ti dicono: ma la riunione la facciamo in italiano o in inglese? Sono ragazzi che hanno 2 o 3 startup che provano a far partire. Sono ragazzi che devi fare la riunione alle 15 del pomeriggio perché stanno facendo l'Erasmus quando si poteva a Singapore, l'altro sta seguendo un corso nelle Filippine. Cioè è una generazione fantastica. I docenti hanno sempre puntato alla relazione molto diretta con i docenti. Adesso la grande sfida per noi, la grande sfida che c'è stata in questi mesi, ma che ancora di più ci sarà con il nuovo anno accademico, è costruire una relazione molto personale tra i docenti e gli studenti, utilizzando sempre di più anche i nuovi mezzi. Quindi quello che è stato usato in questo periodo è un insegnamento che rimane? non solo rimane, ci stimola a migliorarci, cioè ci stimola a pensare come la didattica centrata sulla relazione personale, perché non tutte le università scelgono questo, ci sono altre università che puntano su altro. Per noi è importante proprio il rapporto docente-studente. In Università Cattolica lo studente ha un rapporto diretto col docente sempre, e questo, quello che abbiamo vissuto in questi mesi, ci stimola a trovare il modo, e in questi tre mesi lo abbiamo già in parte trovato, a mantenere vivo questo rapporto molto personale utilizzando anche i nuovi mezzi. Noi abbiamo continuato a fare gli esami di laurea e ci sono scene bellissime, una scena stupenda, c'è l'esame, questa la dico perché è troppo bella, è finita anche su tutti i telegiornali, c'è a un certo punto una ragazza che si laurea in psicologia, mi pare, al professore davanti, il professore è un po' commosso, c'è la discussione, e a un certo punto, quando viene proclamata e il professore finisce la proclamazione, compare un ragazzo che dà un bacio sulla guancia alla ragazza e scompare subito. Ed è stato un... cioè, questo significa che, ok, gli strumenti possono essere virtuali, ma se noi siamo bravi, le relazioni possono continuare a essere personali. Poi certo dovremo riaprire sicuramente anche i nostri luoghi, i nostri chiostri che sono bellissimi, le nostre aule. Stiamo dotando tutte le aule per poter fare lezione contemporaneamente con gli studenti in presenza, che prenoteranno il loro posto attraverso un'app, e quando avremo raggiunto il limite massimo per la sicurezza sanitaria possibile, gli altri seguiranno da remoto attraverso lo streaming. Bisogna reinventare tutto, bisogna davvero, su questo abbiamo imparato tante cose. Sì. Allora, adesso facciamo una breve pausa, poi ti faccio parlare un po' di musica. Hai studiato in questi anni un po' di musica? Tanto tu hai rock, ma tuo mi sono figlio commosso che... nella parte sì, no, ho studiato moltissimo, ormai... mio figlio, quindi conosco quelli nuovi, quelli strani, però quando hai fatto l'altra mezz'ora quella là non era male. X, quella delle... non era male, non era male, va bene. Mi barca meno tra la trap e gli anni 80-90. Oh, va bene. Cremonini. Allora, tra poco parliamo di musica. Vi voglio riportare un messaggio che ci ha scritto Luigi da Pontedera poco fa, nella prima ora, perché abbiamo avuto ospite Andrea Nardinocchi, bravissimo cantautore, che ha raccontato senza imbarazzo di un suo gravissimo momento di crisi. E il commento di Luigi era: vabbè, ma spiegategli che fare l'operaio è un'altra cosa. Allora, noi tra poco parleremo della musica come lavoro. A tra poco. Radio Tube Social Network. Eccoci insieme per l'ultimo spicchietto, l'ultima mezz'ora, gli ultimi 20 minuti ormai del nostro Radio Tube con il nostro co-conduttore d'eccezione Daniele Bellasio. Bentornato Daniele, ci stai riprendendo Grazie, un po' di gusto? Ma no, io adesso mi mancherai tantissimo dopo questa trasmissione. Devi invitarmi. Sì, sì, ti invito ancora. Ti invito ancora. Ti invito ancora. Vuoi entrare nella rotazione? Si può fare. Posso entrare nella. No, incredibile. Si può fare. Ti inserisco nei miei amici della co-conduzione di RadioTube. Dai, che meraviglia. Senti, io poco fa facevo questa considerazione: la musica come mestiere. Una delle cose che abbiamo imparato in questo periodo è che ci sono dei mestieri che si sono fermati, e forse ci siamo resi conto che ci sono lavoratori che erano quasi trasparenti, ai quali non pensavamo mai. Allora, io voglio introdurre il prossimo ospite, però con un po' di musica, con un po' della musica sua, e quindi facciamo così, va? Roby? Vabbè, io già mi sento proprio a fare serata, anche la Roby è lì in regia pronta, Edo, già siamo pronti a far serata, ragazzi, non si può ancora, si può ascoltare musica, non si può ancora andare a ballare, dobbiamo avere ancora un po' di pazienza. In questi giorni tanti artisti si sono fatti dei selfie sui social, in particolare su Instagram, con un cartello col loro nome, il loro mestiere, e l'hashtag io lavoro con la musica, perché la musica è un lavoro. Allora, per parlare di questo argomento ho chiamato un altro amico di RadioTube, DJ, producer, come avete sentito, compositore, un tempo cantautore, ma dice che non lo vuole più fare, Davide Ferrario. Ciao Davide. Ciao Marta, ben ritrovata. Allora, sei d'accordo con questo mio pensiero? Cioè, i lavoratori della musica erano una categoria un po' trasparente, evanescente, come se ci fossero le star della musica e basta, e che tutto andasse in automatico. E invece in questo periodo si sono fermati un sacco di lavoratori. Ma allora, ti devo dire che questo è un paese dove la musica con grande difficoltà è stata considerata un lavoro. Cioè, noi tutti che facciamo questo mestiere, in realtà anche i big sostanzialmente, sono abituati tutti a sentirsi dire: sì, ma davvero che lavoro fai? Perché è un po' questo poi quello che succede, no? Perché quando dici che fai il musicista, sei un po' uno che si diverte, un po' uno che non si sa bene cosa faccia durante il giorno, fa tardi la notte, in situazioni a volte anche un po' così, che ci si immagina essere un po' promiscuo e un po' di vario tipo. La realtà è che ovviamente la musica è assolutamente un lavoro, prima di tutto perché non esistono solo i big, ma esistono, come giustamente hai ricordato tu, tutta una serie di figure che collaborano alla realizzazione di quello che può essere un concerto, di quello che può essere un disco, per cui tecnici, per cui facchini, per cui persone in qualche modo sono essenziali per la realizzazione e per poi fare divertire le persone nella migliore maniera possibile che vengono a vedere gli spettacoli o che fruiscono della musica. Domani è la festa della musica, tra l'altro sono 25 anni che c'è la festa della musica in Italia, ricorrenza decisa tantissimi anni fa in Francia da Jack Lang. Davide, adesso dico Daniele, tu sugli 883 e su Max Pezzali sei preparato, vero? Ma Max Pezzali, peraltro, è un fratello interista, quindi abbastanza. Quest'estate doveva esserci il grande concerto di Max Pezzali a San Siro. Quindi, e poi erano due, che tra erano ecco. Tu sei da tanti anni, tra le milioni di cose che fai, il chitarrista di Max Pezzali. Ecco, sì. E doveva essere un grande appuntamento dell'estate, anche lavorativo tuo. Come, certo, hai vissuto queste settimane, questi mesi? Perché noi non ce lo possiamo immaginare, e come è stato per te con tutte le decine di persone che lavoravano a un evento del genere, e moltiplicatelo poi per tutti i grandi eventi di quest'estate, Davide. Certo, certo. Beh, guarda, inizialmente devo dire che appena è accaduta questa cosa, come dire, quasi fantascientifica che stiamo vivendo, si pensava che la cosa si sarebbe risolta in qualche modo in tempo per poter poi appunto fare le prove, che poi in realtà ovviamente tutta la macchina avrebbe iniziato a muoversi più o meno a giugno, per quanto riguarda me in realtà qualche tempo prima, perché poi avrei dovuto preparare le sequenze. Io mi occupo anche di fare la programmazione, insomma faccio varie cose oltre che il chitarrista all'interno di quel progetto. Una volta che ci siamo resi conto che la cosa non era così breve come sembrava, ovviamente c'è e questo è anche un po' banale e scontato dirlo, però c'è sicuramente un grande sconforto, prima di tutto perché era la prima volta, e sarà la prima volta, perché in realtà lo rifaremo, cioè lo faremo, non è che è annullato, c'è stato proprio un grande momento di, come dire, sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista proprio dell'occasione, che era una cosa che dopo tanti anni si andava a in qualche modo coronare, effettivamente la delusione sul momento è stata tanta. Poi, sai, è innegabile dirlo, chi fa il mio mestiere si trova in una situazione in cui sostanzialmente non ha nulla da fare. Io, grazie a Dio, ho uno studio di registrazione dentro al quale praticamente mi sono rinchiuso appena ho potuto uscire di casa, e posso testimoniare che non ce la faceva più, che sui social ogni giorno diceva: sì, io scappo, mi faccio arrestare. Esatto. E invece, per grande senso civico, devo dire che tra l'altro non credevo di avere, sinceramente, sono riuscito a rimanere chiuso in casa fino al momento in cui si è potuto poi uscire di casa, e a quel punto ho iniziato a lavorare, però lavoro su progetti miei, sto scrivendo, sto puntando sulla parte creativa del mio lavoro, perché effettivamente non ci sono cose pratiche da fare in questo periodo storico. È veramente complicato. Allora, facciamo la pausa per la viabilità. Daniele, preparati, se hai qualcosa da chiedere a Davide, perché effettivamente i mestieri della musica sono qualcosa che poco si conosce. Allora, viabilità, e poi saremo ancora insieme per l'ultimo specchietto di RadioTube. Guarda, è qui che costruiremo la nuova sede. Adesso? Sì, è il momento di investire. Sei matto. Me l'hai già detto, ma quante volte seguire i nostri sogni ci ha dato ragione? Le opportunità sono di chi le sa cogliere. Scegli la tua nuova Porsche oggi e inizia a pagarla tra un anno. Restart Lease è la risposta di Porsche per superare questo momento e ripartire insieme. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni, consultare i fogli formativi presso i concessionari aderenti e su Porsche.it. Offerta valida fino al 10 agosto 2020, salvo approvazione della finanziaria. RadioTube Social Network. Tranquillo, siamo qui noi, filosofi playboy, Zerbini alle 8:30 puntuali al bar. Lei sicuro non verrà, lei sicuro non ci sta, tacchi a spillo e sguardo da star. E gli amici che ti vedono con lei sanno già che il gol tu non lo segnerà. Passaggio non lo azzecchi mai, ora è sempre pedalare cazzi tuoi. Allora, a parte la voce di Pierluigi Pardo, questo è il pezzo dei DPCM Squad. Avete insomma capito che stiamo parlando degli amici di Max Pezzali, che hanno fatto una canzone come gli 883. E abbiamo sempre il co-conduttore Daniele Vellasio. Daniele, ci sei? Ciao, ci sono. Qua. E Davide Ferrario, c'è un po' di zampino tuo anche in questo pezzo? Sì, assolutamente. Devo dire che più o meno tutto quello che esce di Max, in qualche modo, anche solo marginalmente, però più o meno le mani ce le metto sempre. Vedi, c'è il marchio di garanzia di Davide Ferrario. Daniele, questo momento di cambiamento, appunto, e di chiusura ci ha fatto capire qualcosa di nuovo del mondo della musica, del mondo della cultura in generale? Che ne dici? Assolutamente sì. Devo dire una cosa, perché ci tengo. Io penso che soprattutto nella prima fase del lockdown, quella in cui tutti noi non capivamo praticamente molto ed eravamo solo costretti a stare in casa, gli artisti sono stati veramente molto in gambe sensibili, si sono scatenati sui social a inventare un modo per continuare a far compagnia agli italiani. A mio modo di vedere hanno proprio svolto quasi un ruolo sociale, cioè io non so, penso alle dirette Jovanotti, ma lo stesso Max Pezzali, anche soltanto far uscire dei prodotti artistici in quella fase lì era un segno importante di essere attivi, di speranza. Dall'altra parte noi italiani diamo per scontata l'industria culturale, sempre la diamo per scontata, c'è ma non si sa, come dicevi tu all'inizio. Il problema è che nella musica molti lavoratori lavorano, guadagnano solo se lavorano, e nella musica non esiste il posto fisso, intanto perché è tutto legato al proprio talento, dai tecnici del suono, delle luci, chiunque, fino all'artista, e tutto ruota attorno al talento e ruota attorno all'evento. Se non c'è l'evento, non c'è il lavoro. Quindi questa cosa qua è stata veramente una cosa dimenticata. Mi fa piacere che, appunto, gli stessi grandi artisti che in un primo momento hanno svolto quel ruolo di accompagnamento sociale nei confronti degli italiani in una fase complicatissima, oggi tirino fuori il fatto che però c'è un'industria culturale dietro che va in qualche modo rilanciata. Ora, io non sono uno che pensa che con gli aiuti finanziari in genere si risolva il problema, ovviamente ci vorranno. Mi piacerebbe sapere, forse anche da Davide Ferrari, come si può in qualche modo far capire che quei lavoratori che stanno dietro, che montano i palchi, le luci, hanno bisogno in qualche modo di ripartire, magari con qualche tutela in più. Davide. Allora, io credo che in questo periodo in realtà ci sia un focus abbastanza importante su questo tema, e credo che fortunatamente gli italiani si stiano accorgendo per la prima volta da quando esiste l'industria musicale del pop, perché poi essenzialmente stiamo parlando di quello, per la prima volta si stanno accorgendo che effettivamente quel mondo esiste, che è un mondo che finora è stato sommerso. E la cosa importante, secondo me, in questa fase è rendere le persone coscienti di questa cosa qui, al di là, giustamente, di come dici tu, degli aiuti finanziari che sono probabilmente delle cose un po' fini a se stesse, che poi nel lungo periodo non hanno un grande senso. Vedo crescere questa coscienza sociale e mi auguro che in un futuro non troppo lontano, insomma, perché poi, sai, ci sono anche realtà, per esempio, come i service, cioè persone che lavorano, che affittano strumentazioni, impianti audio solo per gli eventi. Sono realtà che in questo momento sono in grossa difficoltà e rischiano molti anche di chiudere, perché se non hai la liquidità sufficiente per reggere per altri X mesi, che poi di fatto non sappiamo quanti, perché adesso si parla che a ottobre potrebbe esserci di nuovo la pandemia, poi arriva un altro e dice no, invece a ottobre è andato, certo, tutto bene, arriverà a gennaio, cioè, capito, c'è una grande X, per cui bisogna sicuramente, partendo dalla coscienza di dover sostenere questo mondo, questo ambito, riuscire a trovare il modo per continuare a fare cultura, continuare a fare spettacolo, continuare a proporre delle cose e abituare il pubblico che la musica va pagata, va fruita come se fosse un qualsiasi altro bene di consumo. Io lavoro con la musica e l'hashtag, andatelo a seguire, perché veramente ci sono tante testimonianze interessanti in rete. Grazie a Davide Ferrario, che ha continuato a grazie far uscire a musica fighissima. Infatti Edoardo Lavezzari è andato a cercare e fa: beh, ma fa dell'elettronica proprio pesa. Vedi, abbiamo trovato già un altro fan. Grazie Davide, a presto. Un saluto a tutti voi. A grazie. Presto, ciao Davide. Buon proseguimento. Daniele, è il momento dei saluti anche per noi. Cos'è che dicevamo un tempo? Come passa il tempo quando ci si diverte? Dai, però torni torno a trovarci. Torno volentieri, mi hai fatto un regalo, grazie Marta. Dai, sono grazie, proprio, mi proprio fatto felice. Un regalo, torno volentieri. E abbiamo un sacco di argomenti di cui parlare sempre, poi mi raccomando, tratta bene la mia università e continua a cercare di confonderti tra gli studenti. Beh, anche tu allora torni ogni tanto da noi. Sempre, io cerco di mimetizzarmi. Grazie mille Daniele Bellasio per essere grazie stato te, con noi oggi. Bene. Grazie, anch'io tantissimo. Devo ringraziare tanto anche Roberta Frisani in regia, Edoardo Lavezzari in assistenza. Vi ricordo, domani mattina c'è Radio Tube l'intervista dopo il giornale radio delle 7 e nel sito di Radio 24 e nell'app il podcast Ancora Una Poi Smetto, il podcast dedicato alle serie TV. Per genere vi faccio io l'algoritmo umano. Con Radio Tube ci ritroviamo sabato prossimo.